Valera. Sì, sono Lorenzo, qui. Ciao. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Dunque, io mi trovo in questo momento allo stadio Carlini, perché si è sparsa la voce che la polizia stia per venire qua. Dallo stadio Carlini stanno uscendo tutti, è una specie di esodo collettivo, stanno uscendo dallo stadio con tutta la roba che hanno e stanno improvvisando un corteo, che non è un vero e proprio corteo, ma è proprio un esodo, nel senso che loro stanno cercando di andare verso Nervi per scappare dalla polizia. Perché se la polizia arriva qui fa lo stesso che ha fatto al Media Center. Io adesso non so, siamo stati poco fa e i lettighieri dell'ambulanza ci hanno detto soltanto che sono state portate via molte persone e che sono state menate tanto. C'è da dire che qui la tensione ovviamente è proprio alle stelle, tutti stanno abbandonando lo stadio, adesso cercheremo di capire dove hanno intenzione di andare e staremo qui a vedere se la polizia effettivamente arriva e vedremo tutto quello che hanno intenzione di fare. Per il momento è tutto e ci risentiamo più tardi. La cosa proprio più sconcertante è che davvero non avevamo idea che fosse la polizia, o quantomeno non ne eravamo certi, cioè pensavamo che potesse essere anche qualche gruppo di squadrista, non so. E la paura ci ha spinto a iniziare a correre, a seguire il flusso dell'altra gente al piano superiore. Siamo corsi così come potevamo e ci siamo rifugiati in questo bagno. E dopodiché siete stati nel bagno per quanto tempo? Ma non so, qualche approssimativamente 3-4 minuti. E cosa è successo poi? È iniziato a accendersi le luci e sentire qualcuno che picchiava la porta. Picchiava, insomma, hanno dato una spinta alla porta. La porta è spalancata, poi è partito il primo manganello, mi sembra, la mia testa, e poi dopo niente, ci hanno tirato fuori e ci hanno... La prima uscita è stata... Io ho visto poi questa scena in cui lei, ovviamente inerme, è stata colpita alla testa e mi è venuta proprio questa espressione, oh merda, nel vedere un poliziotto, due poliziotti armati fino ai denti che pestavano una ragazza di 21 anni, assolutamente. E l'una e 10, un'altra telefonata, pronto? Ciao, sono Ciao. Alessio. Ciao Alessio. Io sono veramente agitato e cioè, non lo so, scendiamo in strada a questo punto, cioè, non so più cosa pensare, davvero, non credo di essere in panico, ma poco ci manca, cioè veramente, io ho la mia ragazza che non so, è lì, non so, deve essere a dormire da quelle parti, l'hanno picchiata oggi pomeriggio, mi ha chiamato prima, però chiaramente alle 8, quindi non so cosa sia successo dopo, per cui sarò in panico, però mi sembra veramente... Non aspettare domani. Sono almeno 5 le parelle che ho visto uscire proprio in questo momento dalla scuola Diaz. Le persone in barella sono dei ragazzi, sono letteralmente massacrati, insanguinati, perdono tantissimo sangue, sono state messe, ci sono 5 autoambulanze in questo momento. Ho parlato con l'onorevole Cento, che è anche lui qua per cercare di capire che cosa sta succedendo. Gli hanno impedito di entrare, hanno impedito di entrare ad un parlamentare. Il blitz sembra che sia in via di conclusione, nel senso che molte forze dell'ordine, appunto in tenuta d'assedio, stanno uscendo in questo momento dalla scuola, volano insulti, volano appunto slogan anche all'interno della scuola. Parlavo prima con dei colleghi di Liberazione di Carta che hanno la sede, insomma la loro sede qua a Genova è proprio nella sede del Genova Social Forum, e mi hanno detto che è stato un attacco del tutto improvviso. Loro stavano uscendo, stavano appunto chiudendo il giornale, hanno cominciato a sentire un elicottero volare, il rumore di un elicottero sopra la loro testa e poi appunto lo sfondamento. Ecco, adesso si stanno portando via un'altra persona, però questo si sta in piedi, mentre invece gli altri 5 che ho visto uscire erano totalmente veramente massacrati. La persona che ho visto invece più a monte, diciamo così, quindi più lontana dalla scuola, era a terra, assistita da dei medici, e aveva il cranio spaccato. C'è una grandissima agitazione, ci sono ragazzi attaccati, perché molti di questi dormivano qua dentro, ci sono ragazzi attaccati alle inferriate delle scuole. Sono uscito anch'io sono stato colpito, dal bagno siamo stati spinti fuori e ci siamo ritrovati nel corridoio che era già pieno di di poliziotti. Uno di questi poliziotti, probabilmente perché parlavo italiano, non lo so, perché vedeva che continuavo a perdere sangue dalla testa, mi ha preso con sé e cerca, diceva agli altri di non picchiarmi. Comunque le manganellate anche mi sono arrivate lo stesso, e gli sputi in faccia, e vabbè, sono piena di lividi.